belle ragazze del castello, di tutte sarà tu certo più bella. Ah, se il conte mi trova, misero a me, tu sai che partito e mi crede per Siviglia. Oh, ben che meraviglia, e se ti trova non sarà cosa nuova. Oh, ti vogliamo vestirti come noi, tutti insieme andremo poi a presentarti fiori a Maramina. Fidati, oh, che rubi di Barbarina.